Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria e comunque i temi di economia della settimana. Vi dico subito che apriremo il programma con un tema che è tornato di attualità, per fortuna a nostro avviso, ossia il tetto ai bonus ai manager delle banche. Dopo la Gran Bretagna che ha deciso di tassarli al 50% tutti i bonus superiori alle 25.000 sterline, è la volta anche della Francia, della Germania, si riapre quindi il tema con grosso anche scoramento, diciamo così, dei manager. Stiamo parlando dei manager di gruppi bancari, gruppi finanziari, chiaramente. Con sullo sfondo però il fatto che in America non si sia riusciti a operare in questo senso e anche le leve della Banca Centrale Americana, del Federal Reserve, per così fare quella che si chiama in gergo moral suasion, quindi una forma di pressione politica sui manager, potrebbero solo riguardare una richiesta da parte della Banca Centrale Americana alle banche che ha aiutato di tornare i soldi. È chiaro che però questo diventerebbe anche potrebbe avere un effetto boomerang, perché in questo momento drenare i soldi prestati potrebbe, diciamo, creare o rendere più difficile la ripresa economica che sta faticosamente affacciandosi. A questo proposito, oggi c'è un buon dato dall'America sulla fiducia misurata dall'Università del Michigan, molto superiore all'attesa la fiducia dei cittadini americani. Questo lo cito perché è stato anche l'unico effetto significativo sulla borsa americana, su Wall Street, che adesso guadagna lo 0,4%. La fiducia del Michigan a dicembre è balzata a 73,4 punti contro previsioni di 68 punti, quindi buon dato dai consumatori americani. Le borse europee vanno meglio in generale di quella americana: Francoforte più 1%, Londra più 0,80%. Più deboli invece Milano e Parigi, più 0,3% ambedue. Tra i titoli segnaliamo Prismian in evidenza oggi, più 2,90%, Italcementi di nuovo forte, più 2,70%, come Autogrill più 2,4%, Pirelli più 2,1%, Atlantia più 1,7%, Finmeccanica più 1,6%, 1,5 punti lo guadagna Snam e anche Terna, l'1,2 rialzo di Luxottica, Tenaris e Fondiaria Sai, Telecom più 1,1%, Campari più 1%. Unipol meno 2,2% invece, Banco Popolare meno 2%, Ansaldo STS meno 1,3%, Unicredito meno 1,2%, come in pregiro e la Popolare di Milano, deboli oggi tutti i bancari, Monte dei Paschi meno 0,90% e anche Lottomatica e Mediobanca perdono uno 0,6%, migliori e peggiori in assoluto. Banca Italease torna a soffrire, meno 9,90% a 1 euro per azione. E poi, poco altro, devo dire, Filatura di Pollone meno 6,51, Green Vision meno 5,20, Caltagirone Editore meno 4,24, Cell Therapeutics meno 3,66. In testa invece troviamo la Lazio più 5,40 e poi poco altro, Tiscali più 3,50, Landi Renzo più 5,3%, RDB più 5%. Fa notizia invece oggi l'euro, perché immagino che ancora pesino l'incertezza sulla Grecia, è in continua discesa l'euro, è 1,46 adesso ed è, è praticamente a quota 1,4590, eccolo qua, per cui rispetto a 1,51 di una settimana fa inizia a farsi sentire l'effetto anche timori sulla Grecia. E partiamo con le nostre notizie in breve proprio da questo. Eh sì, perché sono arrivate rassicurazioni dal governo greco. Di nuovo oggi è intervenuto il premier greco George Papandreou, che ha detto ai leader europei riuniti a Bruxelles: la Grecia non è Dubai, ma un paese della zona euro con un governo responsabile e pronto a cambiare radicalmente le cose. Riporteremo il deficit sotto il 3% in 4 anni. Ricorderete che le stime sul deficit greco erano state taroccate, si può dire, dai greci stessi, cioè dicevano che erano il deficit viaggiava intorno al 3,6%, poi si è scoperto che era al 12%. Vabbè, un dettaglio. E ancora sempre il leader, il premier greco Papandreou, ha detto: non vogliamo aiuti dal Fondo Monetario Internazionale. I governi temono, perché la ricetta del fondo, quando ti presta dei soldi, la conosciamo, è quella che ha portato l'Argentina al rischio anche crack. È una ricetta molto severa, per cui la Grecia non vuole impegnarsi o vincolarsi con aiuto del Fondo Monetario Internazionale. Faremo dei forti tagli al bilancio del 2010. Arriva il nuovo superindice dell'OCSE, ormai è un proliferare. Comunque si conferma che ci sono forti segnali di ripresa dell'economia dell'area OCSE. Rispetto a ottobre siamo a 5,7 punti in più, e l'Italia si conferma come un'economia in espansione, con l'incremento maggiore su base annua, 12 punti in più. Su base invece mese su mese, il paese che sta recuperando meglio è la Germania, poi la Gran Bretagna, la Francia, e noi un po' più bassi della Francia. Le uniche economie, segnala l'OCSE, che rispetto all'ottobre del 2008 sono ancora in calo, si chiamano Brasile e Russia. Volete sapere al 349-238-6666 del petrolio, a $70 il barile, per cui stabile l'andamento del barile. Ancora, per quello che riguarda la nostra legge finanziaria, l'opposizione, i tre gruppi dell'opposizione, quindi PD, l'Italia dei Valori, l'UDC, hanno deciso di sfidare la maggioranza. In che modo? Come già avevano annunciato il leader dell'UDC Casini, riducendo tutti gli emendamenti presentati dall'opposizione, ridotti a 49, in modo da dire: a questo punto non mettete la fiducia, abbiamo ridotto gli emendamenti come avevamo promesso, facciamo in modo che la finanziaria venga dibattuta in aula. Sempre in tema di finanziaria, il ministro per lo sviluppo economico Scajola è tornato sui contenuti per quello che riguarda i soldi sulla banda larga. Ricordate che il CIPE aveva fatto sparire 800 milioni di euro che servivano per il progetto di banda larga nel paese, cioè di collegare e con una velocità accettabile internet in tutto il paese. Sentiamo Scajola, microfono della nostra Chiara Grandis. Nella finanziaria che è in discussione in Parlamento abbiamo inserito una cifra molto alta, 1 miliardo, proprio per credito d'imposta per le imprese che investono in ricerca e innovazione. Poi abbiamo portato avanti bandi su innovazioni di prodotto con una cifra complessiva di 570 milioni, sulla efficienza energetica, sulla mobilità sostenibile e sulle tecnologie, nuove tecnologie del Made in Italy, che sono in corso di assegnazione, che hanno messo insieme piccole e medie imprese, circa 3.000, e 1.000 centri di ricerca, che insieme hanno presentato prodotti innovativi. Dobbiamo adesso impegnarci affinché ci possa essere uno stanziamento pubblico per la banda larga. Noi riteniamo che l'approvazione di uno stanziamento, di un primo stanziamento pubblico, debba essere fatto nel tempo più veloce. Non è in finanziaria, ma lo definiremo all'inizio dell'anno. Allora, volete sapere al 349-238-6666 quale governo greco ha taroccato i dati? Beh, quello precedente. Obiettivamente Papandreou si è trovato in una situazione allucinante. Andiamo avanti invece con l'Italia, con la manovra finanziaria. Fortemente critico sui contenuti della finanziaria il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani, al microfono della nostra Alessandra Schepisi durante la manifestazione legata allo sciopero del pubblico impiego. Ma è una manovra di puro galleggiamento. È una manovra un po' troppo al di sotto rispetto a quello che c'è bisogno. Io vedo che gli altri paesi in Europa fanno tutti di più. Investono in scuola, ricerca, in investimenti, sostengono i redditi, riducono le tasse. Da noi non si fa nulla di tutto questo. Bisognava mettere in finanziaria le risorse per i contratti pubblici, non c'è sostanzialmente nulla. Promesse a cui non corrisponde allo Stato assolutamente nulla. E siccome, così come facciamo nel settore privato malgrado la crisi, che ci battiamo per rinnovare i contratti, la stessa cosa la facciamo anche qui. Così l'idea della CGIL Guglielmo Epifani. Ancora andiamo avanti con le notizie per quello che riguarda lo scudo fiscale. Beh, insomma, c'era parecchia roba all'estero, mettiamola così, perché già, secondo quanto riferiscono fonti parlamentari della maggioranza, sarebbero rientrati 100 miliardi di euro. E devo dire che nostre fonti, molto più parziali, ma insomma che operano e stanno scudando, come si dice in gergo, i rimpatri, confermano che sta rientrando di tutto, case, barche, oltre che soldi illegalmente riportati all'estero, non so se illecitamente fatti, ma sicuramente illegalmente portati all'estero. Insomma, supererebbero già i 100 miliardi, quindi il gettito sarebbe di 5 miliardi di euro. Il termine, lo ricordo, per lo scudo scade il 15 dicembre. E adesso veniamo a una notizia che farà arrabbiare forse le Ferrovie dello Stato, perché con l'avvio della rete completa alta velocità Torino-Salerno, l'abbiamo raccontata, coperta anche nell'inaugurazione, e domenica 13 dicembre partirà ufficialmente, vengono adeguati i prezzi dei biglietti, e fin qua tutto immaginabile, ossia per l'alta velocità Milano-Roma si passa dai vecchi 75 euro della seconda classe, da domenica si passerà a 89 euro, 14 euro in più, il 20% in più. Minore l'aumento sulla prima classe, si va da 103 a 109 euro, il 5% in più. Per l'alta velocità Milano-Bologna, per esempio, dal 13 dicembre, quindi buona Santa Lucia, si pagherà 41 euro per la seconda contro i 37 attuali e 56 per la prima contro i 53 attuali. E fin qua, insomma, sull'alta velocità ci poteva stare. Quello che non capiamo, lo dico senza polemica, è perché gli aumenti debbano valere anche per gli Eurostar che non passano sull'alta velocità e dove il servizio obiettivamente non è che proprio così sia splendido. Lo dico e me ne assumo un'irresponsabilità. Il Milano-Bologna, per esempio, passa da 25 a 28 euro per la seconda e da 35 a 39 per la prima, ma sono tratti in cui, per esempio, anche per gli Eurostar non toccati dall'alta velocità. Comunque attendiamo anche, e magari li inviteremo lunedì, i vertici dell'FS a spiegarci questi adeguamenti. Queste le notizie in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo con il primo tema, Copenaghen, appuntamento importante, ne stanno parlando tutti, per carità. Vedremo che cosa partorirà poi l'elefante, se un topolino oppure un elefantino, ma per ora siamo a grandi dichiarazioni di intenti. Si chiude con oggi, diciamo, la prima settimana di lavori, che poi non è nemmeno tutta una settimana. Il vertice ufficialmente si chiuderà la prossima settimana, venerdì. E allora vediamo se si è mosso qualcosa al di là del buonismo e così delle dichiarazioni formali per quello che riguarda gli impegni dei vari paesi sulle emissioni di gas. Sì, perché la kermesse c'è tutta, c'entra il 3 tra premier e capi di Stato, i blocchi si stanno anche definendo, tutti che arrivano dichiarano, però poi di soldi se ne vedono un po' pochi. Allora, intanto è un scontro su Kyoto, è ancora bianca la tabella degli obiettivi del documento ufficiale, perché che è scaturito dal gruppo di lavoro sul protocollo di Tokyo, cioè nessun accordo finché non ci sarà accordo, grazie, questo è scritto nel documento, e c'è uno scontro che si sta sviluppando tra chi vorrebbe superare i vincoli di Kyoto e chi invece li vorrebbe tenere. L'Unione Europea si è impegnata a dire il vero per 7 miliardi e 200 milioni di aiuti immediati dal 2010 al 2012 per i paesi più vulnerabile al clima, e poi c'è stato un accordo Brown, quindi Gran Bretagna, Francia, Brown, Sarkozy, che ha portato appunto a sbloccare 6 miliardi di euro per il cosiddetto fast start, cioè l'avvio rapido. Ma sul resto siamo ancora molto molto nebulosi, e allora i tanti paesi senza un reale potere diplomatico e anche con poche missioni propongono obiettivi così ambiziosi da non essere quasi accettabili. Gli Stati Uniti invece non vogliono impegnarsi di più rispetto a quanto fatto finora, cioè le emissioni sono calate di solo il 4% negli Stati Uniti dal 1990, e insieme a Unione Europea e Russia premono per depotenziare il protocollo di Kyoto, cioè renderlo più debole. E per contrastare la posizione americana e anche europea e russa, ieri Cina, India, Brasile e Sudafrica hanno chiesto ai paesi ricchi di ridurre le emissioni del 40% entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990. Vorrebbe dire un obiettivo che è il doppio rispetto a quello di Kyoto, che portava le emissioni ridusse del 20%. Un ultimo dato e poi ci colleghiamo con Copenaghen. Chi inquina di più, misurato con CO2? Beh, la Cina 6 miliardi di tonnellate, l'America 5 miliardi e 7, l'Unione Europea 4 miliardi, l'India 1 miliardo e mezzo, Giappone 1 miliardo e mezzo, per cui praticamente Cina e Stati Uniti, o meglio la Cina inquina quanto Giappone, India e Unione Europea messe assieme, è la stessa cosa quasi si può dire degli Stati Uniti. Questo per dare i pesi con emissioni di CO2, di anidride carbonica, che sono dal 1990 al 2008 aumentate del 41%. E stando ai geologi, il livello raggiunto nell'aria che respiriamo dalla CO2 è il più alto da 2 milioni di anni. Questo si può capire guardando anche e facendo anche i cosiddetti carotaggi, cioè la soglia critica. E non è lontano dalla quota 450, considerata la soglia critica oltre la quale la vita di animali e uomini potrebbe essere seriamente influenzata. Jacopo Giliberto, uno degli inviati del Sole 24 Ore a Copenaghen, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho snocciolato tutte le cifre che avevo a disposizione. Aiutaci a capire prima il piano politico, poi il piano degli aiuti. La contrapposizione è questa, cioè Cina, India, Brasile, Sudafrica che dicono vabbè, allora voi paesi ricchi fate il doppio di quanto avete promesso, e invece l'America che spinge per rendere Kyoto più morbida? Sì, non esattamente, è un po' bene, più sottile la demarcazione, ma più o meno a grandi linee. Noi abbiamo i grandi paesi, i paesi industrializzati, tra cui anche gli Stati Uniti, l'Europa e così via, che spingono per un nuovo trattato, un nuovo, chiamiamolo un nuovo Kyoto, chiamiamolo trattato di Copenaghen se si raggiungerà adesso, ma più probabilmente il trattato di Città del Messico, che sarà la prossima conferenza tra un anno a Città del Messico, appunto. Un posto scarsamente inquinato. Assolutamente, molto inquinato e molto esposto alle radiazioni solari perché si trova in altissima quota, e questa è la posizione, diciamo, dei paesi sviluppati, perché Kyoto come è strutturato oggi non va bene. Kyoto sostanzialmente impegna solamente noi ricchi a ridurre le emissioni, e ai paesi meno industrializzati non impone alcun vincolo. Ovviamente questa cosa piace molto invece ai paesi in via di sviluppo, i quali preferiscono non avere alcun vincolo e preferiscono salvaguardare Kyoto così come è oggi. E questo, da qui si capisce perché Cina, India, Sudafrica e Brasile spingono addirittura per un raddoppio delle quote di riduzione, non essendone vincolate. Che cosa vuol dire che l'Unione Europea si è impegnata per dare 7 miliardi e 200 milioni di aiuti immediati dal 2010 al 2012 per i paesi più vulnerabili al clima? Ma vuol dire sostanzialmente che partiamo da una premessa: le strutture internazionali dell'ONU, come questa organizzazione della COP15, non hanno fondi a disposizione se non fondi relativi al mantenimento e all'organizzazione di questi eventi, ma non hanno fondi da mettere, da giocare per finanziare gli interventi. Che cosa fa l'Europa? Dice: allora cominciamo subito noi a creare uno stanziamento col quale pagare i progetti, gli investimenti, gli interventi, per consentire ai paesi più poveri di crescere, ma di crescere in modo pulito, quindi dare loro centrali elettriche a maggiore efficienza, dare loro tecnologie. Questo in sostanza è cercare di consentire la crescita, di non bloccare la crescita dei paesi poveri, ma senza danneggiare il clima o limitando al massimo i danni al clima. E questo, dentro questo aiuto e questo incentivo va anche l'accordo Brown-Sarkozy, cioè il fast start, come si chiama, l'avvio rapido, i 2 miliardi di euro per il 2010-2011? Ma sì, è uno degli elementi correlati. Propongono una riduzione delle emissioni di anidride carbonica un po' più forte rispetto alla proposta originaria del 20%. E poi per arrivare al 2050 con una riduzione assai più consistente, si parla del 50%, pari a contenere il cambiamento climatico di 2 gradi. I 2 gradi sembrano niente a noi, ma in realtà facendo le grandi medie significa danni catastrofici al clima del mondo. Jacopo Gilberto, un'ultima domanda, c'è tutta la prossima settimana, appunto il vertice si concluderà venerdì, però la posizione americana, la posizione cinese l'abbiamo capita, insomma, ma la posizione americana è per un impegno alla fine perché noi abbiamo visto grandi dichiarazioni di Barack Obama, la presenza di Barack Obama e vabbè, però poi la ciccia dov'è? Perché se l'America continua a chiedere di allentare i vincoli di Kyoto, siamo sempre con la solita politica americana su questo, no? Adesso, se non sbaglio, a Washington oggi dovrebbe essere accaduto un qualcosa di interessante, cioè un primo passo in avanti verso una legislazione statunitense, al Senato si sta discutendo proprio di questo. Il Senato è molto cauto sull'accettare il sistema europeo di vincoli, perché gli Stati Uniti non sono d'accordo sul fatto che gli altri paesi, caratteristica di cui si diceva prima, gli altri paesi non siano sottoposti a vincoli, a limiti, a tagli alle emissioni, e quindi sono d'accordo a partecipare a programmi solamente se tutti quanti partecipano a programmi e non solamente alcuni. Sì, non vorrei che fosse però un modo anche per rimandare, dopodiché hanno ragione gli ascoltatori nel notare che è vero che la Cina è quello che quanto a emissioni di CO2 è il paese più pesante, 6 miliardi, lo ricordavamo prima, di tonnellate, e l'America 5,7 miliardi, i cinesi però hanno 4 volte, quasi 5 volte la popolazione americana, e sappiamo tutti che insomma un americano da solo emette in CO2 quasi 4 volte, 5 volte un cinese, per cui anche l'America un po' di autocritica potrebbe farla. Comunque staremo a vedere, le trattative saranno lunghe, speriamo che non sia tutto poi un esercizio di dichiarazioni formali e di passerelle. Grazie per ora, Jacopo Gilberto, in collegamento con noi da Copenaghen. Adesso ci occupiamo di mercati, perché la seduta di borsa si è chiusa in maniera piattina per tutta Europa, non ce l'ha fatta né Parigi né Milano, più 0,1%, meglio Francoforte più 0,90%, anche l'America sta ritracciando, come si dice in gergo, più 0,20%, Londra più 0,65%, l'euro è a 1,45,90 in questo momento. E parleremo anche di euro, poi delle piccole imprese che resistono, si sono incontrate oggi a Milano, e abbiate pazienza, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, anche dei tetti se arriveranno ai super bonus dei manager finanziari e bancari, visto che Francia, Gran Bretagna e Germania hanno preso una strada che immaginiamo possa applicarsi anche in Italia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa e poi gli altri temi che vi abbiamo annunciato. Chiusura piattina, una settimana sicuramente non con grandi spunti per le borse, al di là dei timori che si sono registrati a inizio settimana sulla Grecia e non solo, però più 0,1% Parigi, Milano, Francoforte più 0,8%, Londra più 0,4%, l'America più 0,2%, euro sempre a quota 1,4590. I temi con Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Allora, vediamo i titoli migliori e peggiori. Le banche oggi deboli, Banco Popolare ha perso il 2,6%. Qui però c'è anche la vicenda Prismian che Banca Italis meno 11,8%. Iniziamo da Banco Popolare. Sì, le banche Italis. Esatto, le banche oggi sono state protagoniste di una seduta a due facce, in avvio hanno guadagnato terreno proseguendo nel buon momento fatto a registrare ieri, mentre sul finale è complice la chiusura della settimana e quindi la volontà degli investitori di chiudere le posizioni, sono tornati a prevalere i timori che ricordavi anche tu dell'inizio della settimana sulla situazione non solo del Dubai ma anche della Grecia e poi della Spagna. Ricordiamo che i debiti sovrani di entrambi i paesi sono stati declassati dalle agenzie di rating nel corso della settimana e proprio l'andamento delle banche greche, che hanno perso in media il 6%, e anche di quelle spagnole, oggi ha trascinato al ribasso le quotazioni di tutti gli istituti di credito, tanto che il sottoindice sul settore bancario a livello europeo è l'unico che oggi ha chiuso in territorio negativo perdendo lo 0,8%, in particolare a Milano ha perso terreno il Banco Popolare, ma hanno perso anche Unicredit l'1,41% e la Banca Popolare di Milano l'1,17%. Ricordiamo la vicenda Italease, che oggi ha chiuso la prima settimana dopo l'avvio dell'aumento di capitale, oggi ha perso l'11,8%, è stata molto volatile nel corso dell'intera settimana. Ricordiamo che lunedì, nel primo giorno dell'aumento, aveva guadagnato circa il 74% e complessivamente rispetto al venerdì scorso le azioni, il bilancio settimanale per un guadagno del 22%, anche se il valore dell'azione resta superiore, quindi disallineato rispetto al valore implicito espresso dai diritti sull'aumento di capitale. L'azione Italease ha chiuso appena sopra quota 1 euro e il valore implicito segnalato dai diritti è di 0,76 euro. Quindi debole complessivamente il fronte bancario, in particolare Banco Popolare e Banca Italease. Bene oggi invece alcuni titoli che si sono avvantaggiati di questa nuova debolezza forse eccessiva, ma insomma di un dollaro che recupera terreno sull'euro, l'euro che scende a 1,45, diciamo appunto valeva 1,51 la settimana scorsa. E di solito i titoli che si avvantaggiano di più sono quelli che hanno buona parte del fatturato in America, a partire da Autogrill, che infatti oggi guadagna il 2,4%. Altri titoli? Sì, per quanto riguarda, come ricordavi tu, questi titoli sul dollaro, il dollaro ricordiamo che ha guadagnato terreno nei confronti dell'euro dopo una serie di dati macroeconomici positivi provenienti dagli Stati Uniti, in particolare la fiducia dei consumatori e le vendite al dettaglio, mentre sul listino c'è stata appunto questa debolezza delle banche, d'altra parte hanno guadagnato terreno tutti i titoli più ciclici e quindi legati alle prospettive sull'intero settore economico, in particolare quelli delle costruzioni come Italcementi più 2,72%, o Prismi anche salito del 2,63%. Oggi sono arrivate infatti notizie positive dalla Cina e sul fronte dell'economia cinese, che in novembre la produzione industriale è salita del 19,2% ed è l'incremento più marcato da giugno 2007, quindi la speranza ovviamente è che l'economia cinese torni a svolgere questo ruolo di locomotiva per l'andamento dell'intera economia mondiale. E tutti i titoli più ciclici che avevano perso terreno nelle ultime settimane, soprattutto in seguito alla crisi del Dubai e poi della Grecia, oggi hanno rialzato la testa. Sì, è vero, hai ragione, tutti diciamo, i paesi, i titoli, le borse coinvolte in queste preoccupazioni per ora hanno recuperato qualcosa. Andiamo avanti con le azioni, perché il miglior titolo in assoluto, però, oltre ai Italcementi più 2,7 e Autogrill più 2,4 e Prismian più 2,6%. Prismian. Sì, anche per Prismian diciamo che gli operatori segnalano da una parte proprio il suo legame con tra i titoli ciclici, quindi con la congiuntura economica. Il business di Prismian è strettamente legato alla disponibilità di investimenti e quindi al buon andamento dell'intero ciclo economico. D'altra parte ci sono inoltre alcune indiscrezioni sul fatto che Prismian stia negoziando con le banche un nuovo finanziamento da 800 milioni, negoziati che sembrano essere vicini alla finalizzazione, quindi il mercato apprezza questa ulteriore liquidità disponibile per la società e oggi i titoli sono saliti del 2,63%. Ancora i dati, i titoli: Unipol meno 2,3, Ansaldo meno 1,4, Unicredit meno 1,4, avevamo detto in pregiro meno 1,2, l'automatica meno 0,90. Tra chi è andato bene invece, oltre ai titoli citati, anche Pirelli più 2,3%. Sì, per quanto riguarda Pirelli, diciamo che ha recuperato terreno insieme all'intero settore auto, ovviamente a cui è strettamente legato. Il sottoindice del comparto auto a livello europeo ha guadagnato oltre lo 0,8%. Inoltre sul mercato gli operatori continuano a segnalare, insomma, gli interrogativi sul futuro della società e in particolare sul business immobiliare. Pirelli controlla la Pirelli Real Estate, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe, i due business, il business dei pneumatici e quello immobiliare, potrebbero essere separati e quindi seguire strade diverse. Non ci sono novità, ma il mercato continua a scommettere su questa ipotesi che secondo gli analisti estrarrebbe valore da Pirelli e quindi hanno premiato le quotazioni del titolo. Allora, siccome ci piace anche citare i titoli più sottili in questo periodo, i migliori li abbiamo dati: Snam più 1,6, Exor più 1,5 come Atlantia, Terna più 1,3, Finmeccanica più 1,2, Lecir più 0,90 come Luxottica, anche Luxottica appunto si è avvantaggiata del dollaro forte, Tenaris più 0,90, Mediaset più 0,8 come Campari e Bulgari, Telecom più 0,6 torna sopra l'euro per azione 1,071 euro. I peggiori mi sembra di aver detti tutti. Andiamo ai titoli più sottili, e dicevo, a parte Zignago Vetro più 5,4, la Lazio più 5,4, Exprivia più 5,1%. Ieri è arrivata una notizia proprio su Exprivia. Sì, ieri è mercato chiuso, quindi il mercato l'ha scontata soltanto oggi. È arrivata la notizia di una commessa da 11 milioni per la società. Si tratta di una gara d'appalto per la fornitura di sistemi di gestione di dati e immagini presso gli ospedali di Asti, Nizza, Monferrato e a 8 case della salute della provincia. La notizia è ovviamente positiva per la società. Oggi, fin dall'avvio, il titolo Exprivia è stato uno dei migliori del listino e ha chiuso, come ricordavi tu, nel alto del 5,12% a 1,19 euro. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Cori Sole 24 Ore. Buon fine settimana ai colleghi dell'agenzia di stampa del gruppo Sole 24 Ore. A 7:48 minuti. Dunque, se io vi dicessi che c'è un settore in Italia che occupa 4 milioni di persone, ossia il quasi 20% di tutti i lavoratori italiani e il 10% comunque della popolazione lavorativa, voi immaginereste probabilmente il metalmeccanico, il turismo, altri settori del Made in Italy. Invece stiamo parlando del cosiddetto non profit. Le organizzazioni non profit, ne parliamo appunto anche per avvicinarci al Natale, hanno superato abbondantemente quota 200.000 e la metà sono nate negli ultimi 10 anni. Tra l'altro il Nord, dove la cultura del volontariato, lo dico senza nessun commento aggiuntivo, ha origini più lontane ed è più radicata, che se ne dica in alcuni casi, al Nord stanno il 50% di queste 200.000 attività e società non profit. Al sud 28% e al centro 21%. C'è una banca in Europa che è l'unica dedicata esclusivamente all'organizzazione no profit, è Banca Prossima del gruppo Intesa San Paolo, e vogliamo fare punto proprio con loro, visto che hanno già avuto tra raccolte e finanziamenti accordati 1 miliardo di euro con 7.000 realtà del terzo settore, sia laiche che religiose. E allora siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Banca Prossima, dottor Marco Morganti. Buonasera. Buonasera a voi. Complimenti per l'andamento della raccolta, visto che il settore del volontariato ci interessa particolarmente. Una domanda: con la crisi è diventato più difficile raccogliere fondi, il fundraising, come si chiama? Come lo chiamano chi ha studiato? È diventato più difficile tutto il contesto, nel senso che il non profit ha delle difficoltà in più, che nascono dall'impoverimento delle famiglie, dalla difficoltà di relazionarsi con enti pubblici che pagano con lentezza talvolta insostenibile. In particolare l'impoverimento, la riduzione della disponibilità economica delle famiglie riduce anche la capacità di fundraising delle organizzazioni. Ragione di più per farlo meglio, questo è il lavoro che ci siamo prefissi. E farlo meglio, mi scusi, cosa vuol dire? Farlo meglio vuol dire superare quella fase di improvvisazione, di artigianato, meritorio sicuramente, che però non è sufficiente a far crescere un'organizzazione non profit con la raccolta così come la si fa oggi. Tanto per darle un'idea, le dirò che rispetto ai primi 23 paesi più sviluppati, più industrializzati, che nei quali paesi le organizzazioni non profit raccolgono il 10% del loro fabbisogno con il fundraising, l'Italia si ferma al 4%, il che vuol dire che c'è molto spazio per raccogliere di più di quanto si raccoglie. Molto spazio e molta necessità di farlo. Bisogna farlo più presto. Come vengono impiegati questi soldi, dottor Morganti? Beh, vengono impiegati per lo sviluppo dei progetti che vengono promossi nelle campagne di raccolta fondi. Quindi normalmente un'organizzazione non profit si rivolge ai suoi simpatizzanti o a tutti i cittadini, racconta un progetto e chiede un finanziamento per poterlo realizzare. Poi è molto diverso, e questa è una cosa sulla quale bisogna riflettere, è molto diversa la capacità che queste organizzazioni hanno di tradurre tutto quel valore che viene consegnato loro dai cittadini in progetti con efficienza ed efficacia. Beh, in bocca al lupo per l'attività in generale, poi avremo modo di tornare anche su questi temi più vicino a Natale. Mi passi la battuta, dottor Morganti, ma insomma non riesco proprio a trattenerla. Speriamo che il non profit non debba occuparsi fra un po' anche delle piccole imprese italiane, visto che il prossimo tema che tratteremo è proprio questa riunione che si è tenuta a Milano tra l'associazione che è nata spontanea, le imprese che resistono, 150 imprenditori provenienti da tutta Italia, per lamentare insomma una situazione di difficoltà molto forte e anche chiedere al governo un abbassamento della pressione fiscale. Comunque grazie intanto all'amministratore delegato di Banca Prossima, in bocca al lupo anche a voi. Grazie a voi, grazie, grazie. Io la battuta l'ho fatta, però obiettivamente qui la situazione continua a essere molto difficile per i piccoli imprenditori soprattutto. Allora, il nostro Stefano Totoro oggi ha seguito questa manifestazione spontanea, c'è anche molta così, sono anche accuse un po' di pancia, meno ragionate, però insomma sentiamo chi ne è il responsabile, ossia il portavoce Movimento Imprese che Resistono, Luca Peotta, al microfono il nostro Stefano Totoro. Le aziende ovviamente devono resistere a questa ondata di crisi che ha colpito, diciamo, l'Italia, e quindi per il momento bisogna continuare a resistere. La finanziaria no, assolutamente no. Cioè, della piccola e media impresa non penso che ci sia mezzo punto nella finanziaria che sia stata prevista, ecco. Sicuramente partirà un appello, e diciamo che vogliamo puntare su tre cose fondamentali, che saranno sicuramente la prima, quello che deve essere appunto la certezza dei pagamenti. Adesso ci stiamo lavorando sopra, vogliamo vedere se riusciamo a costituire una proposta di legge, e successivamente Basilea 2, che ovviamente, se questa regola nei prossimi mesi verrà applicata con l'anno nuovo, sarà strapenalizzante, quindi non so quante piccole e medie imprese si salveranno. E l'altro è lo studio di settore, che è una follia. Sì, io immagino che non si può dire forse ufficialmente, ma che molte banche, molte filiali bancarie si guardino bene ad applicare i criteri di Basilea 2 con quello che è successo alle imprese piccole negli ultimi 12 mesi, altrimenti non si può concedere un prestito a nessuno se si guardano quei criteri scritti sulla carta, in teoria, senza guardare poi il contesto. I prezzi si possono dare solo ai grandi gruppi. Comunque sentiamo le difficoltà, è la cronaca di chi è intervenuto oggi a questa autoconvocazione. Giuseppina Virgili produce abbigliamento a Scandicci in provincia di Firenze. Allora, io produco abbigliamento femminile sul nostro disegno, cioè produciamo roba nostra, 100% italiano, su territorio italiano, con manodopera italiana. È successo che dall'anno scorso sono iniziati a non rientrare dei pagamenti, e quindi questo che cosa ha portato? Ovviamente a, per andare avanti, mettere soldi in tasca nostra. Furia di mettere soldi in tasca nostra, sono arrivati a un punto che i soldi sono finiti, ci siamo appellati a tutti i Tremonti Bond, a tutto quello che veniva fuori per aiutare le aziende in difficoltà, ma non siamo riusciti ad avere niente, perché le banche rispondono che abbiamo un rating basso. Come vive lei adesso? Io non vivo, vado alla Caritas per prendere i viveri, ogni tanto la Caritas mi dà 100 euro, 50 euro, mi sono venduta i pochi ricordi che avevo di famiglia, avevo degli orologi. Quanto fatturava la sua azienda prima? Allora, noi fatturavamo intorno ai 300.000 euro. Senta, cosa vuol dire questo movimento per lei, le imprese che resistono? Che cosa proponete? Le imprese che resistono ha un occhio a noi invisibili e cerca di rendere le nostre voci visibili e dargli un tono e un'amplificazione a quelli che sono i nostri problemi. Allora... Pazzesco, non ho altre parole da aggiungere, saranno anche, spero, pochi casi isolati, ma pazzesco. È chiaro che se le banche ti bloccano i finanziamenti perché il rating non ce l'hai, insomma, bisogna trovare altre soluzioni, non è possibile applicare Basilea 2 come se non fosse successo niente dal 2007 in poi. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, come promesso, ci occuperemo dei super o dei bonus ai manager bancari, ma vorrei concludere con l'autoconvocazione di queste 150 imprese oggi a Milano, le imprese che resistono. Devo dire molto significativa e anche toccante la testimonianza che abbiamo ascoltato prima del GR, addirittura di chi va a chiedere i pacchi alla Caritas a farsi prestare i soldi, imprenditrice nel settore della moda. E mentre salutiamo e facciamo anche complimenti al gruppo Zucchetti, che ha vinto oggi il premio di Padre in Figlio, il gusto di fare impresa, continuiamo però a raccontare anche le imprese, le piccole imprese che vivono in estrema difficoltà. Francesco Muratori, titolare della M, azienda del Bresciano, è specializzata nella produzione di stampi di piccole e medie dimensioni. Allora, in questo momento abbiamo nessun ordine, ho due dipendenti su 15 che avevo a luglio che sono ancora in cassa integrazione e che riesco a pagargliele io la cassa integrazione, perché altrimenti la prendono fra 6 mesi. Non lo so cosa fare, non so dove andare a prendere lavoro, sto cercando di aggrapparmi, come si dice dalle mie parti, ai vetri per cercare di stare a galla, per tenere un'azienda aperta, ma non so fino a quando. Cosa vuol dire resistere? Impegnare tutto, impegnarsi a livello personale e anche a livello economico, però anche l'economico finisce. E che cosa vuol dire invece essere invisibili? Essere invisibili è quello di urlare o dire delle cose e che nessuno ci sente, oppure ti fanno sempre passare dalla parte di quello che hai evaso il fisco, non paghi. Ma non paghi perché non si paga, o perché si tenta di allungare anche noi i pagamenti, e perché anche noi non li prendiamo, c'è gente che si approfitta di noi, oppure ci sono le banche che ti mettono in condizioni di dover venderti anche le mutande per cercare di dare almeno al tuo dipendente un po' di vita. Questo movimento sta crescendo, a chi vi appellate e che cosa chiedete? Ci appelliamo a questi politici che sono sordi e sono ciechi delle nostre esigenze. Stiamo cercando in tutti i modi di farsi conoscere, di far conoscere la realtà viva. Non mi vergogno a dire che quando vado a mettere la chiave nel mio ufficio per entrare, mi verrebbe da lasciare tutto e andare dall'altra parte dove passa una linea ferroviaria per cercare di dare una fine a un qualcosa che non so come finisce. Quali sono le vostre priorità? Il credito, cioè le banche ci devono aiutare, dobbiamo essere pagati da chi ci deve i soldi, e anche lo Stato, la politica e tutto ci deve mettere in campo, deve mettere in campo delle cose concrete, non solo parole. Auguri anche a questo imprenditore, lo diciamo senza retorica, immaginiamo che insomma quella minaccia sia resti, ci auguriamo solo una minaccia. Auguri anche per la politica, che ci sembra impegnata su altri fronti, mettiamola così, non sul sostegno ai piccoli e invisibili. Attenzione, le difficoltà le hanno anche le medie e le grandi imprese, così rispondo a alcuni sms al 349-238-6666, ma le medie e le grandi imprese non sono invisibili, le piccole e le piccolissime sì. Nel frattempo c'è chi invece la crisi la sta festeggiando quanto a fine. Nei primi 9 mesi del 2009 le prime 5 banche di Wall Street, quelle che l'hanno generata per buona parte sta crisi, hanno già messo da parte 61 miliardi di dollari da distribuire sotto forma di bonus ai loro manager e ai loro operatori del mercato. Solo Goldman Sachs ne ha messi da parte quasi 17 miliardi di dollari. Complimenti anche a Goldman Sachs, che adesso però ha capito di avere fatto un passo falso e ha annunciato che questi bonus verranno dati in azioni e non in denaro. Grazie. Per fortuna che si muove la Gran Bretagna, perché insomma, la Gran Bretagna ha deciso che d'ora in avanti vi sarà una tassa, una tantum per tutti i bonus ai manager finanziari, bancari, per i bonus superiori alle 25.000 sterline, quindi alle 30.000 euro. E oggi, la notizia di oggi è che anche Sarkozy, quindi anche la Francia, vuole andare avanti nella stessa direzione, tassare in maniera eccezionale i bonus elargiti dalle banche ai loro dipendenti nel 2009. E Angela Merkel, quindi la Germania, ha detto: beh, l'idea di questa tassa britannica è un'idea attraente. Professor Giulio Sapelli, buonasera. Buonasera, carissimo. Grazie. Allora, ci risentiamo su questo tema. Insomma, lei insegna storia economica, è anche un editorialista di vari giornali, tra cui anche Il Sole 24 Ore, ma a me interessa un altro aspetto. Sì. È mai possibile che da un lato abbiamo ascoltato, io non voglio fare il populista, però imprese che vanno, imprenditori che vanno alla Caritas a chiedere i pacchi, quello che dice che vuole distendersi sui binari, e poi c'è una mezza rivolta in corso tra i banchieri, i manager finanziari dell'Europa perché, per questa tassa decisa dalla Gran Bretagna? Guardi, bisognerebbe rileggere il manifesto del Partito Comunista. Eccoci. Di Carlo Marx e di Federico Engels, quando dicevano la borghesia, la classe più rivoluzionaria del mondo, bla bla bla bla. Si sbagliavano, perché adesso ce ne sono due di borghesie. Ecco. C'è una borghesia che è quella di quel terribile esempio, l'esempio che mi ha commosso di questo signore che le ha dato questa intervista devastante. E non ha sentito quella... l'imprenditore che fa quello che le ha detto, e io ne ho sentiti tanti, che me ne ho sentito dei taxisti che mi hanno raccontato delle storie terribili, simili. E poi invece c'è le cose che lei ha ricordato, perché e le cose che lei ha ricordato si segnalano che è nata una nuova borghesia dei mercati finanziari, molto più rapace della prima, ereditaria, fondata però sull'accesso a pseudo istituzioni culturali, perché Robi Master, le scuole di business administration che non insegnano quasi nulla, ma sono un fatto di status sociale formidabile e che si fonda sull'inclusione dei più ricchi che vogliono diventare sempre più ricchi. Questa borghesia è completamente nuova nella storia mondiale, perché sta facendo la lotta di classe, nel senso c'è un po' di paradosso in questa mia cosa, ma comunque sta combattendo, sta drenando risorse economiche sia agli industriali, all'industria, non gli dà il credito, si scontra con i governi. Per esempio l'Italia è l'unico paese al mondo dove in un momento di crisi le banche e il governo non riescono a trovare un accordo, caso dei Tremonti Bond, e poi soprattutto drena risorse dal lavoro a questa nuova forma di capitale, che è un capitale perfetto, integrato, che è una classe mondiale, che si comporta ugualmente. Professore, io devo mandare le informazioni sul traffico, però poi voglio tornare su questo tema del conflitto di classe, non a Beverly Hills, come recitava un film, ma tra due borghesie, quella manifatturiera, quella storica, fatta anche di imprenditori, di piccoli imprenditori, di artigiani, di commercianti e quant'altro, è quella che invece si regge sulla speculazione da capitale, senza diventare, diciamo, manichei, però insomma obiettivamente qui ci sono due mondi che non si parlano. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. È l'avete chiesto, Gordon Gekko, eccolo lì, Wall Street. Siamo tornati a questo punto, professor Sapelli, perché da un lato abbiamo, e lo dico a chi dice fate i populisti, no, imprenditrici che vanno alla Caritas a chiedere i pacchi, quell'altro che vuole distendere sui binari, piccoli artigiani che non ce la fanno più, lamentele continue. Dall'altra parte c'è un mondo che alcuni ascoltatori al 349-238-6666 chiamano non di nuova borghesia, professore, ma di aristocrazia finanziaria. Beh, aggiungendo parassitaria. È troppo nobile, l'aristocrazia è una cosa troppo seria. Ecco, come, allora, visto che i due mondi non si parlano e visto che in questo momento l'economia principale del pianeta, gli Stati Uniti d'America, hanno una difficoltà forte, cioè se dovessero fare una minaccia alle banche dovrebbero un po' ritirargli i soldi che gli hanno prestato. Però questo comprometterebbe la ripresa e quindi ci sarebbe anche un effetto boomerang. Come se ne esce? Cioè, cosa... Guardi, non se ne esce come pensano Sarkozy e Brown. Perché come la pensano loro è un modo sbagliato. Non è facendo le tasse, facendo le leggi. Come stanno cercando, se mi posso permettere di fare una precisazione a quello che lei ha detto, di fare i tedeschi. Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze, per il signore in carrozzella che è un grande personaggio, ha dato, e adesso è ministro delle finanze appunto, ha dato oggi una dichiarazione al Financial Times dove dice che lui sta lavorando per un accordo volontario con il German Financial Sector Representative, sta cercando di elaborare un accordo volontario. Pensare di fare la tassazione, anche se fosse collegata tra due nazioni, che ha degli effetti devastanti perché produce i cosiddetti comportamenti controintuitivi, cioè non previsti. Trovata la legge è fatto l'inganno. E quindi l'unico modo è trattare con questa gente qua, ricondurli, fare una lunga, però questo vuol dire che è una battaglia culturale prima che politica, che durerà alcuni anni. Sì, io non la vedo, è però una cosa, non si può combattere a colpi di legge, perché se no questi distruggono il sistema economico mondiale. Beh, perché sono nichilisti. Un certo colpo l'hanno già dato, professore. Sì, ma se tu gli metti le tasse, questa gente non ha nessuna visione di lungo periodo, è solo affamata di denaro ed è pronta, dispostissima a distruggere l'economia. Quindi bisogna andarci molto cauti. I Sarkozy, i Brown, sottovalutano gli avversari che hanno davanti. Però questi sono come delle bombe atomiche potenziali. Se io ho davanti a me una bomba atomica, cerco di fare un trattato di non proliferazione e devo negoziare con questi personaggi, anche se li disprezzo. E quindi lei dice un accordo su base volontaria. Come hanno fatto alcune compagnie industriali, non danno più resto cofio. Le danno a lunghissimo periodo. Cioè, cominciamo, e soprattutto cominciamo a dire ai giovani che ci può essere un'altra vita che non di questi personaggi qui. Vabbè, questa è un'operazione culturale. In una battuta, perché mi chiedono molti ascoltatori di riascoltare le imprenditrici di prima, allora vediamo di non sforare coi tempi e faccio riascoltare. Saluto, ma lei, no, una cosa, professor Sapelli, ma lei lo vede un tentativo in questa direzione? Perché noi notizie in questo genere non ne abbiamo. Guardi, amico caro Barisoni, sai quanto la stimo. Questa trasmissione che lei fa è più importante delle proposte di legge di Sarkozy e di Brown. Se ci facessero trasmissioni come lei, finché gliela faranno fare, i banchieri tra un po' telefoneranno al Sole 24 Ore, già al Sole 24 Ore non parla più di economia, ma di altre cose. No, tra un non, po è vero, non è vero, non è vero. Io le auguro di continuare a farla. Senta, il mio compleanno oggi la prendo così, dai. Una serie di trasmissioni come queste servono più che le leggi. Grazie, la prendo come un regalo di compleanno. Non è vero che Sole 24 non si occupa di economia, anzi, grazie a Giulio Sapelli. Buon Natale. Buon Natale anche a lei, e comunque buon fine settimana. L'imprenditrice che vi abbiamo fatto sentire prima, rapidamente perché siamo lunghissimi con i tempi oggi, e allora di Scandicci, provincia di Firenze, Giuseppina Virgili. Allora, io produco abbigliamento femminile sul nostro disegno, cioè produciamo roba nostra, 100% italiano, su territorio italiano, con manodopera italiana. È successo che dall'anno scorso sono iniziati a non rientrare dei pagamenti, e quindi questo che cosa ha portato? Ovviamente a, per andare avanti, mettere soldi in tasca nostra,